Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Diciamocelo, a ciascuno di noi è successo almeno una volta di pubblicare un'immagine presa da internet e quasi mai, insomma, ci siamo posti il problema di chi l'avesse per esempio realizzata, pensata. Questo utilizzo disinvolto delle immagini trovate su internet, soprattutto se fatto per fini commerciali, si scontra contro il diritto d'autore, e questo direi nel migliore dei casi. D'altronde, a volte anche volendo, è difficilissimo capire o risalire all'autore di una fotografia. Per risolvere questo tipo di problemi, l'Unione Europea ha finanziato il progetto Toothpick, che porterà a breve alla realizzazione di un motore di ricerca pubblico, prima o poi, in grado di scovare l'autore di una foto. Questo motore avrebbe, manco a dirlo, moltissime applicazioni. Ne parliamo con Enrico Magli, che è professore di elaborazione di immagini e video, guarda caso, al Politecnico di Torino e coordinatore del progetto Toothpick. Buonasera Magli. Buonasera. Allora, senta, intanto partiamo da qui. Che cosa rende unica, in qualche modo, quindi riconducibile ad una macchina fotografica, se ho capito bene, una qualunque immagine? Sì, non tutti sanno che qualunque sensore che acquisisca immagini, vuoi che sia quello a bordo di una macchina reflex o una compatta o anche solo uno smartphone, lascia un'impronta digitale in qualunque foto scattata dal dispositivo. Il motivo per cui si genera un'impronta digitale sta nel fatto che il sensore che acquisisce l'immagine dovrebbe avere dei pixel idealmente tutti uguali tra di loro, ma in realtà in fabbrica, a causa delle imperfezioni del processo di fabbricazione, i pixel non vengono proprio fuori tutti identici. E queste piccole differenze fanno sì che vi sia un segnale residuo che rimane in ciascuna foto, e questo segnale, per quanto molto debole, può essere rilevato, misurato e quindi rilevato in altre fotografie, rendendo possibile capire quale dispositivo ottico ha scattato una determinata fotografia. Quindi ovviamente non si può sapere il nome del fotografo, naturalmente, a partire da un'immagine, ma tutte le immagini scattate da una certa macchina fotografica, o meglio da un certo sensore, sono riconoscibili come tali, sostanzialmente. Esattamente. Questo però si sapeva in qualche misura. Esattamente il vostro contributo qual è stato? Allora, il nostro contributo, detto in parole povere, è stato quello di sviluppare un formato di impronta digitale della macchina fotografica compresso, che occupa molto poco spazio sul disco e quindi si presta anche a ricerche su scala molto grande. C'era un problema, diciamo, di avere a disposizione degli algoritmi efficaci per trattare questo tipo di massa di dati, che altrimenti diventa intrattabile. Esattamente, per ridurne la dimensione e per rendere quindi possibile la ricerca all'interno di queste grandi impronte digitali. Esatto. Giusto. Ecco, senta, allora, quali sono i campi di applicazione di un motore di ricerca di questo genere, che poi, come vedremo, sta per arrivare? Ce ne sono diversi e anche abbastanza differenti tra di loro. Un'applicazione possibile, per l'appunto, è l'applicazione ai social network o comunque su internet, per capire quale macchina fotografica ha scattato una determinata fotografia. Simile a questo c'è anche il problema che noi chiamiamo di retrieval, ovvero di trovare tutte le foto scattate da una certa macchina fotografica. Queste applicazioni sono interessanti perché permettono, per esempio, di affrontare il problema del copyright su internet. Certo. Quindi provando ad evitare, per esempio, che ci siano degli utilizzi indebiti di determinate perché fotografie. Uno può dimostrare che sono io il proprietario della macchina fotografica che ha scattato quell'immagine. Esattamente. E poi ricordiamoci che oggi su internet circolano video e immagini illegali che non dovrebbero circolare, rese pubbliche senza che la persona ritratta lo sappia. Qui è uno strumento che potrebbe essere utilissimo, questo qui, o in campo del terrorismo anche. Sì, dal punto di vista investigativo è un'arma estremamente interessante, perché ora come ora non sarebbe possibile fare analisi di questo genere su database molto grandi di fotografie che siano a disposizione degli investigatori, mentre invece con le tecniche che noi abbiamo sviluppato si rende possibile anche questo tipo di applicazione. E c'è ancora un'altra applicazione su cui noi stiamo lavorando, che è differente dalle precedenti, ovvero l'autenticazione fatta in maniera user friendly tramite, per esempio, uno smartphone, dove invece di autenticarsi con nome utente, password, SMS e così via, lo smartphone può scattare semplicemente una fotografia e l'impronta digitale del sensore fotografico serve come password. Dunque, voi state lavorando su un motore di ricerca, come avevamo anche anticipato. Allora, il motore di ricerca dovrebbe consentire idealmente di implementare le due applicazioni di cui ho parlato in precedenza, quindi capire quale macchina fotografica ha scattato una determinata foto, oppure rintracciare tutte le foto scattate da una macchina fotografica. Noi pensiamo che l'applicazione più interessante sia all'interno dei social network, dove social network basati sulla fotografia, come Flickr per esempio, oppure Instagram, potrebbero fornire dei servizi dove questa funzionalità serve a evitare che un utente si appropri in maniera indebita della foto di un altro utente. Ecco, mettere insieme un database di tutte le immagini presenti su internet forse non è la vostra portata, però potrebbe essere interessante. Sarebbe la portata di Google, quindi ecco. un ente tipo Google piuttosto che Facebook o simili potrebbe pensare di integrare questa o tipo l'NSA per capirsi che lo farà di sicuro. Può darsi, sì. Senta, le chiedo un'ultima cosa. C'è modo di manipolare le immagini cancellando sostanzialmente l'origine? Cancellare l'origine, quindi l'impronta digitale, non è necessariamente un'operazione semplice da effettuare, ma è possibile. È possibile. Esiste una ditta nordamericana che vende un prodotto per effettuare questa operazione. È più difficile il fatto di modificare l'immagine al fine di far credere che la macchina, che la foto sia stata scattata da qualcun altro differente, esattamente. Questo richiede, ne abbiamo parlato prima, richiederebbe investimenti cospicui. Sì, richiederebbe un altro progetto europeo come questo. Okay. Sì. Va bene, grazie Enrico Magli. Grazie a lei, buonasera. È tutto per questa sera, appuntamento a domani.